manca il conte Guido per la Toscana, la lanza e manca il porta e la bandiera, la lanza e manca il porta e la bandiera. Cavalca il conte Guido per la Toscana, la lanza e manca il porta e la bandiera, la lanza e manca il porta e la bandiera. Un cavalier di Spagna cavalca per la via dal piede una montagna.